Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Ci occuperemo chiaramente dell'incontro tra governo e sindacati sugli ammortizzatori sociali a valere sul 2016, stanziati 370 milioni di euro anche per le crisi, e poi il ministro Poletti ha spiegato da dove arriveranno le risorse. La CGIL dice che questi ammortizzatori sociali, comunque, che queste misure sono insufficienti, interventi parziali, si guadagna solo un mese in più. Parleremo però anche di economia internazionale, perché nonostante ieri non si sia deciso nulla sul congelamento della produzione di petrolio, i paesi produttori vanno avanti, nel senso che oggi è intervenuto anche l'Iraq, che è il secondo produttore di petrolio dell'OPEC, dell'organizzazione OPEC, dopo l'Arabia Saudita, e anche l'Iraq si è detto pronto ad aderire ad un eventuale congelamento della produzione se arriverà un accordo all'interno dell'organizzazione dei paesi esportatori, che si riunirà a fine mese ad Algeri. Per quello che riguarda invece notizie di carattere italiano, oltre al tema degli ammortizzatori sociali, c'è il tema bancario oggi che torna, perché ieri in serata la Banca Popolare di Vicenza, nella sua prima semestrale dopo l'intervento del Fondo Atlante, che ha praticamente comprato tutto il capitale della Vicenza, e partecipando alla ricapitalizzazione da 1,5 miliardi, come quasi unico soggetto, praticamente fu un aumento di capitale che andò di fatto deserto e dovette intervenire il Fondo Atlante. Nella sua prima semestrale 800 milioni di euro di rosso, le nuove rettifiche per altri 600 milioni di euro e un ulteriore aumento delle coperture sulle sofferenze bancarie. Ci sono ancora infatti dentro il bilancio della Popolare di Vicenza 9 miliardi e 300 milioni di euro di sofferenze. Gli impieghi verso la clientela sono scesi del 7%, hanno già chiuso 146 filiali, ma come ha chiarito ieri il numero uno Iorio, lo snellimento, la chiusura delle filiali, insomma sono 700 sportelli e 5.500 dipendenti per ora. Ma dicevo, ieri il gruppo ha fatto capire che non è certo finito lo sfoltimento di filiali e dipendenti. Parleremo di banche però anche per la vicenda Monte dei Paschi, perché qui insomma si rischia di avere una strada tutta in salita, per essere buoni, sull'aumento di capitale invece del Monte dei Paschi. Oggi, secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, anche il finanziere Andrea Bonomi avrebbe risposto con estrema freddezza all'ipotesi di partecipare all'aumento del capitale. Sarebbero stati sondati anche i fondi sovrani del Qatar, del Kuwait, però insomma, ripeto, tutto in salita, nonostante l'augurio dello scorso fine settimana del Presidente del Consiglio, che si era augurato di un aumento del capitale al Monte dei Paschi entro l'anno. Chiuderemo appunto sia col petrolio che con il vino, due liquidi molto diversi, non per questo non cari, dipende dal vino soprattutto. Perché la stagione, la vendemmia oggi presentata del 2016 si sta delineando come una vendemmia in cui l'Italia torna leader mondiale, 48,5 milioni di ettolitri, seppur in leggero calo, sono quasi 5 milioni in più rispetto alla Francia. Attenzione però, poi ne parleremo, noi spesso battiamo la Francia come produzione, altra cosa invece è il valore che riusciamo a generare da questa produzione. I francesi complessivamente sono più bravi. Ne parleremo appunto nella parte finale del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Do subito la borsa, che vede Milano perdere lo 0,60%, Parigi lo 0,20%, Francoforte invariata, Londra meno 0,80%, Dow Jones meno 0,12%. Tra i titoli segnalo ST Microelectronics più 1,60%, Unipol 6 più 1,40%, Unipol più 1,30%, Ferragamo più 0,80% e Finmeccanica, Leonardo Finmeccanica, come si chiama adesso, più 0,70%. come Fiat Chrysler. Chi perde oggi, i cali sono molto contenuti: Tenaris meno 1,90 come Banco Popolare, Telecom meno 1,80 come Mediobanca, l'1,5% lo perde Intesa San Paolo e la Popolare Emilia Romagna, ma anche Saipem, Monte dei Paschi e la Popolare di Milano. Chiudiamo con UniCredit che cede l'1,30%. Rapidamente adesso le altre notizie, in breve. Allora, al di là della vicenda petrolio, oggi sul fronte farmaceutico invece segnaliamo il rilancio da parte del colosso Bayer per acquisire Monsanto, rilancio chiaramente fatto aumentando l'offerta, oltre 65 miliardi di dollari, pari a un valore di 120, a una valorizzazione di 127,5 dollari per azione della Monsanto. Prima era ferma l'offerta a 125 dollari. E devo dire che Monsanto ha confermato questa mattina trattative costruttive. L'offerta di Bayer è arrivata e ora verrà valutata. Andiamo avanti perché oggi i dati di nuovo sull'area euro, devo dire insomma che erano dati già anticipati largamente, ma confermano una frenata della crescita nell'area euro. Dopo lo 0,5% dei primi tre mesi del 2016, nel secondo trimestre l'area euro ha fatto più 0,3%, tra l'altro su base annuale è rallentato anche in questo caso all'1,7%. La crescita annuale italiana, quindi rispetto all'anno precedente, è confermata allo 0,8%, quella congiunturale invece a 0%. Sia in Italia, congiunturale vuol dire trimestre su trimestre, che in Francia che in Finlandia, sono le ultime nell'Unione Europea, Italia, Francia e Finlandia, sotto la media anche Austria, più 0,1, Grecia e Lituania, volano i paesi dell'est, più 1,5, la Romania, l'Ungheria, più 1%, stiamo parlando sempre del congiunturale, bene anche la Spagna, più 0,8%, la Germania invece rallenta, più 0,4%, quindi in linea con la media europea. C'è poi il tema dell'IVA non riscossa, perché secondo uno studio commissionato da Bruxelles nel 2014, il dato si riferisce, lo studio si riferisce infatti a quell'anno, in Europa sono arrivate mancate entrate, diciamo così, per 160 miliardi di euro, cioè l'IVA evasa a livello europeo vale 160 miliardi, di cui la parte da padrone la fa l'Italia, dove si sono persi quasi 37 miliardi di euro di IVA non riscossa nel 2014. Poi c'è uno studio curioso, anche per alleggerire ogni tanto questi temi, perché lo studio diffuso da The Atlas è andato a vedere quanto cambierebbe il PIL delle varie nazioni se non vi fossero le capitali. Nel senso, andato a vedere il livello anche di capacità aggregativa e produttiva e quindi di volano delle varie capitali dei paesi interessati, praticamente tutti i paesi avrebbero un calo del PIL tranne la Germania, che paradossalmente guadagnerebbe se dai bilanci venisse meno il costo di Berlino. Su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Che cosa succederebbe alla Germania se perdesse Berlino e all'Italia se perdesse Roma o Londra se uscisse non dall'Unione Europea ma dall'Inghilterra? Beh, è difficile dirlo sicuramente sul piano sociale, ma sul piano economico qualcuno ci ha provato ed è stato l'Istituto di Colonia per le Ricerche Economiche, uno dei più accreditati think tank tedeschi e in generale europei. Ebbene, questo centro di ricerca è andato a vedere che cosa accade alle economie nazionali europee nel caso in cui perdessero le capitali. Per quanto riguarda la Germania, e questa è la sorpresa più grossa che viene dallo studio, addirittura il prodotto interno lordo tedesco, la ricchezza nazionale prodotta, salirebbe dello 0,2%, togliendo la capitale. Nel caso di Roma, la caduta del prodotto interno lordo italiano, invece, sarebbe soltanto del 2,1%, la contrazione più piccola fra tutte le capitali europee. Quella che colpisce di più è Londra, meno 11,2%, togliendola dall'Inghilterra. Per quanto riguarda le altre curiosità, meno 15% il prodotto interno lordo francese senza Parigi, e per quanto riguarda la Spagna, i nostri concorrenti eterni, la Spagna perderebbe il 6% della propria ricchezza nazionale se Madrid decidesse di uscire o staccarsi o venisse cancellata in toto. È chiaro che si tratta di un esercizio di fantasia, un po' un gioco per vedere il peso della burocrazia sulle economie nazionali, ma certamente è emblematico che Roma, pur avendo sede di tutte le grandi imprese pubbliche, le società con grandi fatturato e grandi occupati, bene, togliendola dall'Italia, l'impatto sarebbe relativamente esiguo. Come dire, è evidentemente il peso della burocrazia che schiaccia i nostri conti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, chiaro che, vista la cronaca della giornata politica su Roma, questo esercizio nulla c'entra con quanto sta capitando a Roma. Ci mancherebbe, però è importante vedere come invece le diverse capitali, lo dico chi sta scrivendo al 349-238-6666, contribuiscono meno poi al PIL complessivo. Voglio dire, oggettivamente significativo il peso di Londra e Parigi, e invece per converso il peso molto molto minore di Berlino e anche quello di Roma. Comunque, andiamo sul primo tema del programma e parliamo di UEF, ma parliamo anche di quanto dichiarato oggi nell'incontro con le varie parti sociali per quello che riguarda il progetto del governo per la ricostruzione delle aree devastate dal sisma, il progetto appunto Casa Italia. Se ne è parlato oggi perché il Presidente del Consiglio Renzi ha incontrato il commissario alla ricostruzione Errani, poi ha avviato le consultazioni con enti locali e le regioni per il piano Casa Italia. La scommessa è quella di un lavoro decennale, e ha detto Renzi no a battaglie politiche sulla ricostruzione, serve la regia. È una regia unica e linee guida chiare. Per tornare a fare progettazione con criteri nuovi e tecnicamente all'avanguardia, appunto coinvolte anche le cosiddette parti sociali, sentiamo il presidente di Confindustria su questo, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Siamo capaci in momenti di emergenza di esprimere il meglio del paese, come abbiamo un sentore di normalizzazione, rallentiamo. E quindi con questo spirito, diciamo, di una visione di medio termine, di un paese che deve reagire e che deve ricominciare a progettare, e con questo metodo, che è quello dell'ascolto del governo in termini di proposte da parte delle parti sociali, si avvia, diciamo, una questione che può essere un modello che parte da questa questione particolare, che dà un'idea di medio termine del paese e che può riguardare anche elementi della economia complessiva, cioè la crescita. Quindi siamo al titolo, nei prossimi giorni chiaramente invieremo le nostre proposte al governo e poi saremo parte dei tavoli tecnici. E giudizio positivo anche dell'incontro col governo sul progetto Casa Italia, anche da parte del segretario generale della CGIL Susanna Camusso. Abbiamo fatto un incontro che non esito a definire positivo, anche se ovviamente oggi era ancora prevalentemente di impostazione metodologica. con un impegno che apprezziamo del governo a continuare a lavorare in sede poi tecnica per configurare quello che il governo stesso ha denominato Casa Italia. Abbiamo apprezzato l'idea di un piano che programma degli interventi su un periodo lungo che guarda il tema messa in sicurezza del paese, oltre che messa in sicurezza sismica, anche di messa in sicurezza del paese. Come credo abbiate capito, abbiamo dichiarato una disponibilità delle organizzazioni sindacali a collaborare in questa avventura di prospettiva del paese, sottolineando la necessità che si determinino delle priorità e il rapporto tra quelli che sono edifici, luoghi pubblici, a partire da scuole, ospedali, municipi, e quello che invece altri strumenti, altre modalità per provvedere ad affrontare il resto del paese. Diciamo subito, non abbiamo ancora affrontato un tema risorse e finanziamenti, quindi a questo immagino dedicheremo delle altre occasioni. E devo dire che questo è l'unico, per quello che riguarda la giornata, giudizio positivo della Camusso sul governo, perché adesso invece entriamo nell'altro tema, e mi riferisco a quanto annunciato oggi in tema di ammortizzatori sociali che varranno sul 2016. 370 milioni di euro stanziati, più nel dettaglio 85 milioni destinati al prolungamento della cassa integrazione straordinaria nelle aree di crisi industriale complessa, quindi Gela, Molise, Taranto, Termini Imerese, Ascoli Piceno, Rieti, Livorno, Trieste e Piombino. Altri 150 milioni invece per i lavoratori disoccupati di queste aree, rimasti privi di ogni altro sostegno al reddito. I lavoratori interessati, se abbiamo capito, sono tra i 30 e i 40 mila. Altri 135 milioni sono invece destinati all'ampliamento della NASPI, che è l'indennità di disoccupazione, da 3 a 4 mesi per i lavoratori stagionali cosiddetti ricorrenti. Le misure saranno inserite nel decreto con i correttivi per il Jobs Act, e su questo la nostra Teresa Trillò ha intervistato il ministro Poletti, che chiedendogli in primo luogo da dove arriveranno le risorse. Questi 370 milioni provengono da spostamenti di spese di capitoli del Ministero del Lavoro, quindi non c'è stata un intervento ulteriore, ma sono ricavati all'interno del nostro bilancio, anche perché siamo in fase di stesura del nuovo bilancio, quindi in questo momento non ci sarebbero state le condizioni di legge per andare a cercare risorse da altre parti. Con questi interventi noi stiamo valutando dai 35.000 ai 40.000 persone che sono coinvolte da questi processi. E invece molto molto più scettici sindacati. Intanto ringrazio il collega del Sole 24 Ore, Claudio Tucci, che ha seguito anche questo incontro. Buonasera Claudio. Sì, buonasera, ciao. Allora, i sindacati, molto scettica la Camusso e quindi la CGIL, misure insufficienti, e praticamente ha detto poi il segretario confederale Sorrentino, è solo un mese in più. Sì, il mese in più appunto è per gli stagionali, cioè la NASPI e gli stagionali, qui appunto si corregge il decreto sugli ammortizzatori ridotti del Jobs Act. Il problema appunto è che è un primo passo. In realtà questo, il governo, era il segnale politico oggi, che era secondo me più che l'aspetto tecnico, ovviamente per le tutele per i 40.000 lavoratori. L'aspetto politico è che appunto il governo ha accolto una delle proposte delle parti sociali. La settimana scorsa Confindustria, CGIL e CISL e UIL hanno trovato un accordo presentando un documento comune per modificare, o per meglio adattare, i nuovi ammortizzatori sociali alle reali esigenze dei settori produttivi, in cui la crisi, soprattutto in tanti settori industriali, non è che sia ripresa così forte, anzi la cassa integrazione straordinaria è in aumento, è l'unica cassa che aumenta da 7 mesi dell'anno, ed è quindi sintomatico di grandi processi di riorganizzazione e riconversione, soprattutto appunto nella manifattura, nei settori industriali. Ecco, l'accordo di oggi è importante, anche se il sindacato in realtà è stato tiepido. La CISL è stata più positiva. Ecco, allora guarda, facciamo una cosa Claudio, siccome abbiamo alcuni piccoli contributi, ascoltiamo, prima che sentiate appunto la CGL e quindi il segretario confederale Serena Sorrentino. Cioè, noi chiedevamo una profonda revisione del nuovo assetto degli ammortizzatori sociali. Non abbiamo risposte in via ordinaria sui limiti che sono stati imposti alla cassa integrazione, né quella ordinaria né straordinaria. Non c'è una revisione della disciplina dei contratti di solidarietà. È vero che sono stati annunciati come correttivi, ma l'esito di questo confronto, se partiamo da qual era la base delle richieste delle organizzazioni sindacali, è assolutamente limitato e, per quello che ci riguarda, anche insoddisfacente. Quindi insoddisfacente per la CGIL. Adesso ascoltiamo prima la UIL, quindi il segretario confederale Guglielmo Loi, e poi a seguito anche il segretario confederale della CISL Gigi Petteni. Perché? Perché la UIL ha una posizione più mediana, bene, ma solo un tampone, e invece più positiva la CISL. Consideriamo, come dire, questa operazione, come quella sulla Naspi e molto parzialmente quella sui voucher, come una buona aspirina che prende atto che c'è una malattia, che non la cura perché, come dire, le ragioni sono molto più profonde, cerca di abbassare la febbre per affrontare, come dire, la terapia giusta nei prossime settimane, nei prossimi mesi. Questo è quello che noi segnaliamo. Fino a ieri si nascondeva che ci fosse uno stato febbrile. La febbre c'è, colpisce in maniera diversificata nel paese e va affrontata con una cura. Intanto riduciamo la febbre. I temi affrontati sono temi che abbiamo posto noi, che aveva posto il sindacato, cioè questi temi qua non erano nell'agenda politica del governo. Penso che nelle aree complesse di crisi, di poter dire ai lavoratori oggi che chi scade gli ammortizzatori, gli sono scaduti nel 2016, abbiano 12 mesi in più, è una buona notizia. Poter dire alle persone che hanno perso ammortizzatori e naspi che possono avere un trattamento sociale di 500 euro al mese è una buona notizia. Allora, posizioni da questo punto di vista dei sindacati diverse. Claudio Tucci, l'obiezione che mi sembra di cogliere in maniera più costante è che va bene, diciamo così, per la CIS e in parte anche per la UIL, ma è di breve termine, di breve respiro questa misura. Diciamo è un allungamento, è un prolungamento degli ammortizzatori. Ecco, diciamo che probabilmente nel ridisegnare questi strumenti di sostegno al reddito, il legislatore lo scorso anno ha praticamente ipotizzato un riordino normativo che andava di pari passo con la crescita, un po' più robusta. Mm-hmm. È chiaro che questo meccanismo si è un po' sfasato. Tenete presente, insomma, il punto qui vero è che dopo questo allungamento dei sussidi poi non c'è più nulla. Cioè, il Jobs Act ha limitato moltissimo le durate di questi sussidi, ma le ha resi più onerosi per le imprese. Quindi ecco, un'impresa ora, se vuole utilizzare per esempio la cassa integrazione straordinaria, deve anche pagare un contributo aggiuntivo. Mm-hmm. Quindi l'avere ipotizzato comunque una situazione ponte, no, un allungamento ponte, in attesa che in queste aree ci sia un piano di riorganizzazione che arrivi fino in fondo, un piano di riconversione industriale, che come noto sono attività che dall'autorizzazione amministrativa a tutto l'iter burocratico di attuazione è molto lungo, il nuovo acquirente, l'impresa subentrante. Cioè è un segnale che io vedo, insomma, ecco, già che i sindacati non l'hanno bocciata in toto, insomma, sembra un passo importante, no? È un primo passo ovviamente, però è un passo appunto che risponde un po' alle esigenze di profonda sofferenza e crisi che si stanno avendo soprattutto nel settore industriale. L'altro aspetto appunto fondamentale, forse è passato un po' nei commenti generali in secondo piano, è che non si affronta ora questi problemi solo con prolungamenti di sussidi passivi. Cioè, la novità dell'incontro di oggi è che si legano, cioè si condizionano la fruibilità di questo allungamento a un piano di politiche attive. Cioè, adesso la gestione delle crisi, soprattutto in questi casi eclatanti, no, Gela, Termini Imerese, certo, e Taranto, ecco, è legata al fatto che si anticipa il ricorso a formazione, corsi di placement, corsi appunto per aiutare, cioè non far diventare tutti esuberi, ma ricollocare laddove è possibile il lavoratore anche attraverso l'indotto. Cioè, questo secondo me è la novità grande, la gestione delle crisi aziendale e il cambio di passo. Sì, anche perché più volte abbiamo detto in questi anni che attenzione sulla cassa integrazione e anche la straordinaria. Un conto è quando serve come ponte per una crisi aziendale che l'azienda cerca di superare e poi riparte, ma non aveva nessun senso continuare a buttare risorse per aziende, devo dire che su questo c'era un consenso anche in parte del sindacato, per aziende che non sarebbero mai ripartite, lo dico con la massimo rispetto e tristezza, con aziende cotte e decotte, perché altrimenti buttavi via solo soldi pubblici. Esatto, lasciando i dipendenti in una situazione di limbo, meglio prevedere forme di rientro nel mercato del lavoro di altro genere. Esatto, ma soprattutto è meglio anticiparlo, cioè non farlo, certo. Visto che sì, soprattutto questo avveniva con la cassa integrazione in deroga, no? E la mobilità, certo, in deroga, questi sussidi ora che sono pagati dallo Stato, la CIGS se la paga l'azienda, quindi ecco, con gli ammortizzatori, finché pagava lo Stato, ora si tendeva a durare 12 anni al Sud, queste situazioni di limbo in cui non c'era nessuna attività di ripresa. Ora, questo è l'aspetto positivo che il Jobs Act è intervenuto, probabilmente il Jobs Act doveva calibrare meglio la riduzione, sì, dei sussidi con una crescita economica che tutt'oggi stenta e stenta molto. E quindi questo ci mette una pezza, posso dirlo così? Ci mette una pezza. Ci mette, okay, una pezza. No, perché va anche spiegato perché. Perché il Jobs Act ragionava, immaginava, esatto, un'economia in crescita, quindi anche un effetto sull'occupazione migliore di quello che non c'è stato, molto, molto banalmente. E quindi questo mette una pezza, è forse offensivo, è un elemento di ponte tra queste due cose. Grazie anche a Claudio Tucci, andiamo sul meteo e la pubblicità, poi la borsa, la vicenda popolare di Vicenza da un lato e Monte dei Paschi dall'altro, e poi andremo una seconda ora a parlare di petrolio e di vino senza confonderli. Focus Economia. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Commentiamo adesso la borsa e poi la vicenda da un lato popolare di Vicenza e Monte dei Paschi di Siena. Sono due vicende molto diverse. In una ci sono degli elementi fattuali resi noti ieri dal Consiglio di Amministrazione, nell'altra invece ci sono dei grossi dubbi e incognite sull'aumento di capitale. Comunque meno 0,80% Milano, meno 0,24% Parigi, più 0,14% Francoforte, Londra meno 0,80%, sono borse, diciamo, post-estive ma molto caute, per fortuna in alcuni casi in questi giorni. Unipol più 1,42, Unipol Sai più 1,40, ST Microelectronics più 1,30, Leonardo Finmeccanica più 0,70, Fiat Chrysler più 0,60, questi i titoli migliori. Banco Popolare meno 2,5, Pop Milano meno 2,40, Tenaris meno 2 come Intesa San Paolo, l'1,80 l'Opera della Popolare Emilia Romagna, l'1,60 CNH Industrial e Telecom Italia e anche Monte dei Paschi. 1,5% il calo di Unicredit e Mediobanca, l'1,30 quello di Moncler, l'1% lo hanno perso Azimut e UbiBanca, ma anche Saipem, Fineco Bank ed Exor. Ciao Condi, nella Radio Cori, sulle 24 ore, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora, poi parleremo della vicenda popolare di Vicenza e Monte dei Paschi di Siena. L'indice ISM dei servizi americano oggi, come ricordavamo in apertura, non ha aiutato perché è andato ai minimi dal 2010. Questo è stato anche un pretesto però, CEO, per vendere qualcosa. Mediaset però mi interessa perché ci sono voci di una forse soluzione non attraverso gli avvocati nella vicenda Vivendi e quindi Mediaset Premium. Sì, si continuano a susseguire indiscrezioni su una possibile, diciamo, soluzione pacifica di una diatriba che ormai si prolunga da diversi mesi. Le parti ricorrono agli avvocati, a possibili anche paceri della diatriba. Il titolo se ne giova e guadagna oggi lo 0,3%. Come dicevi tu, è stata una seduta comunque abbastanza fiacca, era positiva fino alla diffusione dell'ISM servizi, poi è arrivato qualche realizzo, alla fine Milano ha chiuso sui minimi, meno 0,8%, ma c'è anche chi ha approfittato di questo dato, considerato che le peggiori sono Banco Popolare e BPM, che hanno perso entrambi il 2,5%, ed erano i titoli che erano più cresciuti nell'ultima settimana, entrambi avevano guadagnato circa il 10%. Ecco, poi oggi, nonostante sul petrolio, ne parleremo nella seconda ora, si vada probabilmente verso un accordo sul congelamento della produzione, i titoli legati al petrolio non è che ne abbiano risentito, anzi Tenaris perde il 2,1, Saipem l'1,1 ed Eni lo 0,70. Sì, Ieri c'erano state performance più positive da parte di questi titoli, oggi il petrolio ha ritracciato, ha perso nuovamente quota $45 e Tenaris appunto ha perso oltre il 2%, Eni è stata la migliore tra i titoli petroliferi, comunque un po' diciamo si è salvata, meno 0,6%, anche grazie ad alcuni report positivi degli analisti che si sono focalizzati in particolare sul percorso di dismissione da parte del gruppo petrolifero, che come noto sta cercando di concentrarsi il più possibile sul core business. Ancora per quello che riguarda altri titoli, Monte dei Paschi, ripeto, ne parleremo tra un attimo, meno 1,60%. E invece andando sui titoli in positivo, oggi si è un po' risvegliato il mondo del lusso, Salvatore Ferragamo più 0,30%, alla fine Yux più 0,25%, bene però Unipol e Unipol 6. Sì, vanno in controtendenza rispetto al comparto finanziario, c'è un rinnovato interesse di mercato per la Galassia Unipol, per le aziende guidate da Cimbre, come dicevi tu anche la moda in una seduta piuttosto fiacca, anche a livello europeo ha visto delle buone performance, se ne sono avvantaggiate Yux che è comunque rimasta sopra la linea di galleggiamento più 0,2%, bene anche Salvatore Ferragamo più 0,3%, anche Luxottica alla fin fine si può essere associata a questo settore, ha ceduto soltanto lo 0,4%. Allora andiamo in una seduta, ripeto, non è che per fortuna, aggiungo, le sedute devono sempre essere al cardiopalma, Bioera più 19,80%, Bio2 più 11%, EMS più 10%, Exprivia più 6,40%, il fronte opposto vede invece la Invest perdere il 5,90%, Net Insurance meno 5% e poi Lucisano Media Group meno 4,60%, Gala meno 3,70%. Per quello che riguarda l'euro su dollaro siamo a quota 1,12,33. Grazie intanto a Ciao Condi, a Radio Cori sulle 24 ore. Allora scrive un ascoltatore al 349-238-6666, mamma mia che poca fantasia, sempre con la papà di Vicenza e Siena. No, abbiamo parlato anche di Veneto Banca, ma questo offre il convento. Perché lo dico? Perché insomma ieri la papà di Vicenza ha diffuso una prima semestrale dopo che è stata di fatto acquisita dal Fondo Atlante, in cui si evidenzia un rosso da quasi 800 milioni di euro. A pesare sui conti 600 milioni di euro di nuove rettifiche e quindi rettifiche in negativo e un ulteriore aumento delle coperture sulle sofferenze portato al 61,4%, ci sono ancora 9 miliardi e 300 milioni di sofferenze. Gli impieghi verso la clientela sono scesi del 7% a 23 miliardi di euro, 146 le filiali chiuse nell'ultimo anno e mezzo. E vedremo dopo le informazioni sul traffico che cosa pesa su questo semestre in pesante rosso, quindi varie voci, una l'abbiamo già ricordata, rettifica crediti, ma non solo, e poi cosa succederà alla Popolare di Vicenza. Nel frattempo sullo sfondo, anche se non diciamo in maniera così emergenziale, c'è tutto il tema dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena, dopo il traffico. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presento Focus Economia. E allora, la Popolare di Vicenza, un rosso pesante, chiedo conferma a Fabio Pavesi, buonasera del Sole 24 Ore Fabio, buonasera. Buonasera a te e agli ascoltatori. Nel senso che arriva dopo l'aumento di capitale da 1,5 miliardi andato deserto, infatti è intervenuto il Fondo Atlante. 800 milioni, dicevamo delle rettifiche, ma ci sono anche altre vicende cattoliche, rischi di azioni legali, no? Sì, il tema è che anche questo bilancio si connota per partite straordinarie, ma oramai è 2 anni e più che assistiamo a eventi straordinari che diventano ordinari. 800 milioni è più della metà dell'aumento di capitale fatto da Atlante. Immaginiamo cosa sarebbe accaduto senza l'aumento di capitale, cioè la banca non avrebbe più capitale di fatto. Era attesa questa perdita perché ovviamente chi subentra fa pulizia. Ecco, sorprende o mica tanto, è gestione Zonina ancora, hanno dovuto svalutare per 230 milioni la quota di Cattolica Assicurazioni, cioè la Vicenza aveva una quota in Cattolica Assicurazioni, c'era una partnership e teneva il valore della Cattolica a valori del tutto irrealistici a bilancio, cioè la Cattolica in borsa quotava molto meno del prezzo a cui la gestione Zonin teneva a bilancio questa assicurazione. E anche lì uno si chiede perché Zonin non ha mai svalutato la quota, perché Zonin diceva non è una partita duratura di valore, è una partnership strategica. Si è visto, Cattolica ha sciolto la partnership e adesso si paga il conto. Vabbè, e poi, un altro pezzo dei conti gonfiati nella gestione Zonin. Sostanzialmente sì, ma c'è, vedi, il dato più preoccupante non è questi 800 milioni che, tolte queste componenti straordinarie, sarebbero stati molto meno. Io guardo i ricavi. I ricavi sono scesi del 31% negli ultimi 12 mesi, cioè la Vicenza faceva 560 milioni di ricavi a giugno 2015, ne fa 384. Cioè se una banca salvata da Atlante, che non aveva capitale, doveva ricostituire il capitale, ha crediti malati ancora molto ampi, ricordiamo che sono tuttora il 22% di tutti gli impieghi, cioè la Vicenza i 9 miliardi di sofferenze, dici? Quelle nette ancora da svalutare valgono il 22% di tutti gli impieghi, quindi sono circa 4,5 miliardi. Quelle cose lì probabilmente verranno svalutate mano a mano anche nei prossimi 6 mesi, e se però la banca perde un terzo dei ricavi in un anno, capisci che il problema diventa difficile, perché tu hai queste componenti legate alla mala gestio di Zonin, cioè crediti malati mai svalutati che adesso sono costretti a svalutare lentamente, ma nel frattempo la banca ha perso il 30% dei ricavi. È vero che il problema dei ricavi vale un po' per tutte le banche italiane, ma quando perdi il 30 tu perdi il doppio dei ricavi che perdono le altre banche, quindi c'è un problema veramente di gestione ordinaria della banca, che proprio perché ha subito quei contraccolpi, chiamiamoli giudiziari, oggi versa anche in difficoltà sul fronte della sua normale attività. Questo è il dato veramente preoccupante di quella semestrale. Sì, e qui lo dico a chi scrive, non stiamo parlando dell'altra vicenda che riguarda la Procura di Vicenza e anche Veneto Banca, cioè il valore a cui venivano dati le azioni della banca, delle due banche, nel caso della Vicenza ma anche di Veneto, non quotate in borsa, quindi valori del tutto arbitrari, che hanno fregato, distrutto i risparmi di migliaia di azionisti tra Vicenza e Montebelluna. Mi riferisco nel caso della Vicenza ai 62 euro a cui furono venduti i titoli nell'estate del 2014, poi scesi arbitrariamente, come arbitrariamente erano stati fissati a 62 dal Consiglio di Amministrazione, a 48 euro nell'aprile del 2014, poi scesi come valore delle azioni a 6,3 euro come diritto di recesso nel febbraio 2016 e poi infine scesi a 0,1 euro per azione, che quello è il valore dell'aumento di capitale che quasi nessuno praticamente ha sottoscritto. Cioè quando i clienti vengono tra virgolette fregati così tanto, poi si allontanano dalla banca, questo beh, è il diciamo tema che vero. Esatto, o uno ha un masochismo di fondo o può avere questa tendenza, fermo restando che però è una nuova gestione. Io non lo dico, nel senso non ho nessun rapporto con Iorio, però capisco che sia una reazione anche psicologica in conseguente a un danno reale della precedente gestione. E senti, però Fabio, nella dichiarazione della Procura di Vicenza sulla semestrale c'è scritto che nel piano verranno valutate diverse, nel piano industriale, diverse opzioni strategiche, sia in ottica stand-alone, sia nell'ambito di eventuali processi di aggregazione. Domanda, stand-alone vuol dire che resti da solo e continui a fare... Ma con quelle cifre che tu hai appena ricordato, realisticamente è pensabile che la Vicenza possa restare da sola? Insomma, le cifre sono queste qui. Il problema è che anche Veneto Banca, che è una delle possibili opzioni, continuano a dire che le due banche potrebbero mettersi insieme. Il vero problema del mettersi insieme tra due banche che hanno avuto vicende analoghe, sia giudiziarie che di ricaduta sui bilanci, tutte e due hanno dovuto richiedere l'aiuto di Atlante per sopravvivere, rischi mettere insieme due zoppi. Insomma, il tema, bisogna stare molto attenti a queste fusioni tra malati, perché uno più uno può fare due, ma può fare anche 0,5. Se tu metti insieme banche che perdono ricavi, che hanno masse di crediti malati al 20-22% degli impieghi, gli stessi numeri li ha Veneto Banca, adesso vedremo il bilancio di Veneto Banca. Purtroppo, come dire, è la coda inevitabile di quella mala gestio che sia Zonin che Consoli hanno cavalcato per una ventina d'anni. Veniamo invece a un'altra vicenda diversa sotto molti fronti, che ha come conseguenza però una banca in ginocchio. Mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. Allora, qui la vicenda è diversa, nel senso che Monte dei Paschi deve fare ancora un aumento di capitale, un altro aumento di capitale, aggiungo io. C'è ancora tempo, nel senso che da Cernobbio il Presidente del Consiglio si è augurato che avvenga entro l'anno, ma non c'è una data ancora fissata. Il punto mi sembra vedere chi potrebbe parteciparvi. Allora, le vicende popolari di Vicenza e Veneto Banca sono state, diciamo, una caporetto, non ha partecipato praticamente nessuno. Il Fondo Atlante si è dovuto comprare, entrare nel capitale, diventare, insomma, l'azionista di maggioranza, di stragrande maggioranza delle due banche. Però sul Monte dei Paschi oggi abbiamo visto che le agenzie citavano una estrema freddezza di Andrea Bonomi all'ipotesi di partecipare all'aumento di capitale. Stanno sondando anche i fondi sovrani del Qatar, del Kuwait. Non si capisce se potrà partecipare il Fondo Atlante. Fabio. Beh, è complicata la situazione. Pensiamo solo a qualche numero in campo. Cioè, MPS capitalizza oggi in borsa 700 milioni. Che è una sciocchezza, ha perso credo l'85% del valore nell'ultimo anno, chiede un aumento di capitale da 5 miliardi, 7 volte l'attuale valore di borsa, quindi con un effetto dilutivo pazzesco. È ovvio che in queste condizioni, cioè, fai fatica a trovare un investitore dopo che siamo al quarto aumento di capitale della crisi della gestione Mussari. La banca ha perso circa 10 miliardi. È vero che i numeri adesso sono a posto, ma senza l'aumento di capitale anche lì la banca non ce la può fare. Quindi la freddezza è nelle cose, cioè non mi stupisce che si faccia così fatica a trovare qualcuno disposto, tant'è che le commissioni delle banche d'affari incaricate tra gli azionisti eventuali sono altissime. Cioè si stima che JP Morgan e Mediobanca, che sono gli advisor incaricati a trovare i sottoscrittori, porteranno a casa da questo aumento di capitale 250 milioni di commissioni bancarie, cioè il 5% del controvalore sono le commissioni che JP Morgan e Mediobanca si beccheranno se riusciranno a trovare gli investitori. Quando le commissioni sono così alte, perché evidentemente è molto difficile trovare gli investitori. Si stima che MPS abbia dato alle banche d'affari di mezzo mondo, oltre a questi 250 milioni, altri 400 agli aumenti di capitale precedenti. Cioè MPS è stato un affare per le banche d'affari che hanno incassato 600 milioni, che è l'attuale valore di borsa di MPS. Devo chiudere, ma Atlante sì o no come ipotesi? Ma Atlante ha le munizioni un po' scariche, nel senso che adesso si parla di Atlante 2 e non ha le munizioni per MPS. Bisogna per forza trovare investitori istituzionali. Cioè, non ha le munizioni vuol dire che ha esaurito i suoi soldi con Veneto Banca. Sì, è Popolare di Vicenza. Questo. Grazie anche a Fabio Pavese, c'è il GR24, poi parliamo, come dicevo, di petrolio e di vino. 349-238-6666 per i vostri SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Focus Economia. Minuti, di nuovo con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. E come già accennavamo ieri, oggi ci sono nuovi sviluppi, parliamo di petrolio. Perché? Perché ieri è stato raggiunto un accordo storico tra Russia e Arabia Saudita proprio sulla produzione del greggio, che mira appunto a stabilizzare a vantaggio dei paesi produttori l'intero mercato. Firmata al margine del G20 in Cina dal ministro dell'energia russo, appunto Novak, e dal ministro saudita Al Falì. Nessuna azione in vista per ora tra Russia e Arabia, però ambedue sono intenzionate ad espandere le proprie relazioni bilaterali e intervenire con o senza l'aiuto di altri produttori. L'ipotesi, ma adesso cercheremo di verificarla, a cui si sta lavorando, è quella di un congelamento delle produzioni per un periodo fino a 6 mesi. E oggi l'Iraq, che è il secondo paese produttore dell'OPEC dopo l'Arabia Saudita, si è detto pronto a un eventuale congelamento della produzione petrolifera se potesse essere utile a sostenere i prezzi del mercato. L'Iraq è disposto a limitare la propria produzione a 4 milioni di barili al giorno rispetto a un'estrazione che ad agosto è stata di 4 milioni e 600 mila barili. Ora, la produzione giornaliera del petrolio mondiale può essere quantificata in circa 60 milioni di barili, un quarto coperto dall'Arabia Saudita, che questa settimana tra l'altro è arrivata a produrre 10,7 milioni di barili al giorno, e poi Russia con 10 milioni di barili. In mezzo ci sono gli Stati Uniti, che hanno circa 12 milioni di barili, ma non rientrano in questa partita. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera. Buonasera, grazie. Allora, devo dire che nonostante queste dichiarazioni fondamentali, quella di ieri tra Russia e Arabia Saudita e oggi l'Iraq, mi sembra che il petrolio abbia avuto ieri un leggero rialzo, oggi è tornato a calare dell'1,20% a $43,9 al barile. È normale una reazione così fredda rispetto a queste dichiarazioni, che a noi sembravano anche importanti? Ma sì, perché è da 6 mesi che la Russia si sta dando da fare per cercare di risollevare le quotazioni. C'era già riuscita a gennaio, perché a febbraio, quando i prezzi avevano raggiunto i minimi sotto i $30, aveva detto: io assieme ai sauditi blocco la produzione a questi livelli di gennaio, che tra l'altro erano dei massimi storici, e aveva risollevato le quotazioni verso i $40, già stato un successo. Poi avevano detto: ci vediamo ad aprile a Doha con l'Iran, per addirittura parlare di una riduzione che avrebbe riportato i prezzi verso dei valori molto più alti. Poi questo è fallito perché i sauditi non lo volevano, perché sono sempre questo scontro con l'Iran, e poi niente, questi ultimi giorni c'è questo tentativo di riavvicinamento. La cosa importante è che stanno spingendo sull'Iran e sui sauditi per metterli d'accordo, perché questo è il nodo fondamentale del Medio Oriente e anche dell'OPEC e pertanto del mercato petrolifero. A questo volevo arrivare, perché mi sembra che tutti questi conti si facciano senza l'oste, nel senso che se l'Iran non aderirà, è chiaro che gli altri paesi OPEC non accetteranno di ridurre o congelare la produzione sapendo che un paese potrà continuare a mantenerle invariate e quindi guadagnare di più. Ho capito male? Esatto, è proprio così. L'Iran è vero nodo della questione, perché da quando è di fatto finito l'embargo formalmente gennaio scorso, ma se ne parla dal 2014, è da allora che l'Arabia Saudita ha cominciato a spingere sulla produzione, a pompare di più, perché non vuole fare spazio al ritorno dell'Iran. L'Iran era sceso sotto i 3 milioni di barili al giorno, vuole tornare a 4, cosa del resto legittima, però dietro c'è questo scontro fra i due principali protagonisti del Medio Oriente, poi i principali attori, i due principali attori all'interno dell'OPEC, per mettersi d'accordo. Non ci riescono, finché non arriviamo a questo accordo i prezzi non si risollevano, però dovrebbe essere una questione di mesi, se non di settimane. No, perché a fine mese c'è un vertice dei paesi OPEC in Algeria, giusto? Sì, c'è un forum internazionale fra paesi produttori e consumatori, fra l'altro anche lì l'Italia, l'Unione Europea, l'OCSE giocano una partita importante, perché sarebbe questo il momento di forzare un dialogo per arrivare a una stabilizzazione di cui parliamo da 40 anni fra consumatori e produttori. Direi $70 sarebbe il prezzo ideale. Non dobbiamo dimenticarci che solo 7 anni fa, quando la produzione OPEC era di 3 milioni di barili al giorno in meno, i prezzi erano $140. Ecco, sì. Questa riunione c'è ad Algeri, informalmente si riuniscono lì vicino, di fianco anche l'OPEC assieme alla Russia. Ecco, la posizione è statunitense, perché sappiamo che, per carità, il braccio di ferro è principalmente tra Arabia Saudita ed Iran, per motivi di carattere politico e anche religioso, sunniti e sciiti, però il braccio di ferro si era, diciamo, alimentato anche nello scontro tra Arabia Saudita e Stati Uniti, ossia il tentativo saudita di, l'abbiamo raccontato molte volte, di buttare fuori dalla produzione i piccoli produttori americani di shale oil, abbassando a tal punto i prezzi da non rendere più economicamente sostenibile per questi piccoli produttori la produzione. Battaglia parzialmente, in buona parte persa, perché è vero che qualcuno negli Stati Uniti non ce l'ha fatta, ma gli Stati Uniti continuano a produrre anche e ad essere quasi autosufficienti sul fronte della produzione. E vorrei capire la posizione statunitense. Ma l'Arabia Saudita voleva riprendersi quote di mercato soprattutto nei confronti degli altri in Medio Oriente. Lei ha citato giustamente l'Iraq, che anche questo è record produttivi storici, ma soprattutto in Iran, poi anche verso gli Stati Uniti, ma in un secondo momento. E di fatto gli Stati Uniti, noi parlavamo solo 3 anni fa dei costi di produzione da fracking intorno agli $80-90, In questi giorni si parla anche di valori in certe aree sotto i $30 per barile, in realtà siamo in un range 30-60 e pertanto un po' è fallita, ma la produzione negli Stati Uniti sta un po' calando. Chi è stato colpito negli Stati Uniti è anche la produzione dell'offshore, del Golfo Persico, tutti gli altri giacimenti, pozzi che non sono nuovi da fracking, c'è ancora metà della produzione che certo. È di questo tipo convenzionale, e lì sta in calo, se non altro non aumenta, questo già positivo per gli equilibri del mercato. No, dico agli ascoltatori che nessuno qui sta tifando perché il petrolio torni a $100, è ovvio che noi abbiamo un vantaggio, meno ce l'ha l'ENI, ma come paese un petrolio intorno ai $40 come si sta muovendo in questi giorni. Tabarelli citava l'obiettivo, se ho ben capito, dei $70, che è l'obiettivo dei paesi produttori, non dei paesi consumatori. Ma se guardi, quello che danneggia molto in tutti i mercati, non solo quello del petrolio, in quelli delle commodity, è l'instabilità, l'incertezza che impedisce di fare investimenti. Quello che è stato fatto dalle compagnie petrolifere, dalle società di servizi in questi ultimi due anni è un taglio drastico, drammatico, dell'ordine di 35% degli investimenti rispetto all'anno precedente, del 2015, la cosa sta proseguendo nel 2016, si sta preparando le condizioni migliori per un ribalzo del futuro. La cosa migliore sarebbe una stabilità, ecco, $40 certo rispetto ai costi di produzione del Medio Oriente che sono $5, 8 volte tanto, rispetto alle medie di $100 su cui ci sembrava ci dovessimo essere stabilizzati per sempre fino al 2014 è meno della metà. Noi al consumo, tenendo conto delle tasse di cui si parla adesso molto, fra l'altro, arriviamo a valori oltre i $200 per barile. Ecco, negli Stati Uniti non hanno tassazione della benzina, dei carburanti, dei prodotti petroliferi, sono molto meno. Cioè, dobbiamo dialogare, loro, i paesi produttori, in particolare l'Arabia Saudita, non hanno convenienza che il prezzo sia troppo alto perché hanno tantissimo petrolio che devono vendere nei prossimi anni. Se il prezzo è troppo alto noi andiamo sulle fonti rinnovabili, che ne so, sull'auto elettrica, cosa che comunque è molto difficile. E, pertanto dovremo cercare di trovare un accordo, anche se, ripeto, è dagli anni 70, dalle crisi petrolifere degli anni 70 che ci stiamo provando. La stessa International Energy Agency fu creata nel 74 proprio per come contrapposizione all'OPEC. Poi sono stati fatti molti tentativi, la nostra Eni è stata sempre in prima linea in questo tentativo di dialogo perché c'è una vocazione italiana nel centro del Mediterraneo, certo, storica verso il Medio Oriente, verso il Nord Africa. Questa è un'occasione, ecco, ovviamente un po' velleitaria, però non esiste solo la finanza e i mercati della commodity che sono estremamente incerti e variabili, perché ripeto, adesso stiamo creando le condizioni per il futuro rimbalzo che speriamo sia violento. Che l'unica cosa certa che abbiamo negli ultimi 10 anni è questa, o 15 o 20, è questa estrema variabilità dovuta anche alla finanziarizzazione, commoditization del petrolio. Sì, quindi il fatto che il petrolio, il prezzo lo si faccia carta, su futures. Sì, devo dire che se devo guardare gli interessi italiani in questo momento con un'economia e anche dell'area euro che cresce meno dell'attesa, che sta rallentando la sua crescita, ecco, un rialzo brusco del prezzo del petrolio non ci vuole, porta inflazione, genererebbe inflazione importata, che è la peggiore inflazione, cioè non inflazione perché stai consumando di più, hai più soldi da spendere, i prezzi salgono, ma un'inflazione importata per cui tu consumi in maniera ancora debole, ma i prezzi delle materie petrolifere e dei loro derivati vanno a salire per i prezzi internazionali. Diciamo, non avremmo bisogno di questo, al di là poi, io ho capito benissimo il suo ragionamento su un prezzo del petrolio stabile che permetta anche alle compagnie petrolifere di pianificare investimenti senza doverli rivedere su oscillazioni e fluttuazioni così forti. Grazie anche a Davide Tabarelli. Il volo può sembrare pindarico, ma in realtà sempre di liquidi parliamo, da un liquido nero come quello del petrolio, densissimo, ha un liquido un po' meno denso e di carattere più rosso. Oggi diffusi infatti i dati sulla vendemmia 2016, l'Italia è tornata a essere leader mondiale, ne parliamo dopo il traffico. Attenzione, sono i dati per i volumi prodotti, non per il valore, e lì infatti c'è ancora un po' di strada da fare. Focus Economia. -18:20. Allora, dicevamo, la produzione italiana torna nel 2016 di vino. a 48,5 milioni di ettolitri, meno 2% rispetto all'anno scorso quando ne furono prodotti 49 milioni. In Francia si stimano però 43 milioni di ettolitri, meno 10% sull'anno scorso. In Spagna 43 milioni, in linea con l'ultimo biennio. Poi c'è anche la Germania, che è un paese produttore, 9 milioni di ettolitri. Portogallo in calo. Quindi l'Italia torna a essere leader a livello mondiale nella produzione vitivinicola. Siamo in collegamento con il presidente dell'Unione Italiana Vini, Antonio Rallo. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Dicevo, a livello regionale poi leadership del Veneto che sfiorerà quota 10 milioni di ettolitri, non lo vedeva da decenni questo livello. Secondo posto la Puglia, 7 milioni e 700 mila, l'Emilia Romagna 7 milioni e 700 mila, in recupero il Piemonte 2 milioni e 600 mila. Flette pesantemente la Sicilia, da cui lei, dove lei produce tra l'altro, quarto produttore nazionale a 4 milioni e 700 mila ettolitri, meno 15%, e flette molto anche la Campania, 1 milione e 200 mila ettolitri, meno 20%. Cali, concludo con i cali significativi in Toscana, meno 8%, 2 milioni e 600 mila ettolitri, e Trentino Alto Adige con 1.200.000 ettolitri, meno 9%. Rallo, che tipo di produzione sarà? E poi però vorrei capire anche il valore, perché noi battiamo ciclicamente la Francia come volume, ma sul valore loro sono ancora molto avanti. Beh, allora intanto dobbiamo dire che la primavera non è stata delle più ottimali, però per nostra fortuna l'estate è stata davvero eccezionale, quindi ci sono tutti i presupposti per una buona vendemmia. È chiaro che ad oggi abbiamo vendemmiato soltanto il 20% delle uve, quindi bisognerà aspettare le prossime settimane per avere una certezza sulla qualità dell'annata, e sicuramente in ogni caso San Martino è sempre la data migliore per dare un giudizio alla nostra produzione. Per quanto riguarda i prezzi, è chiaro che l'aspetto più importante per dare redditività alla filiera, per dare redditività a chi produce uva, agli agricoltori, questi devo dire che sono migliorati tanto negli anni. Il gap con la Francia è stato ridotto del 50%, ma ancora tantissimo sicuramente c'è da fare. Basta pensare che l'Italia produce oggi ancora il 55% di vini da tavola, di vini generici, di commodity, e soltanto il 45% di vini a indicazione geografica o a denominazione, su cui si è costruito sicuramente il successo delle nostre esportazioni negli ultimi anni. Vorrei concentrarmi un attimo sulla Cina, perché la Cina da sempre è l'eterna promessa del mondo del vino. Beh, c'è arrivata, perché a livello di consumo mondiale è il primo consumatore al mondo. È chiaro che è facile in Cina, perché con la popolazione che ha anche un consumo modesto pro capite, diventa un consumo enorme come dato aggregato. È davanti a Italia e Francia, e tra l'altro, nonostante i recuperi della nostra produzione vinicola in Cina, è il prodotto agroalimentare italiano più presente, faccio notare che noi arriviamo forse a 100 milioni di export in Cina, la Francia arriva quasi a 1 miliardo. È stato ratificato un accordo che era già nato durante quest'ultima edizione del Vinitaly, quando il Presidente del Consiglio incontrò Jack Ma. Chi è Jack Ma? È il numero uno di Alibaba, gigante mondiale dell'e-commerce, e proprio Hang Su, praticamente nell'incontro che c'è stato, il vino italiano verrà messo in vetrina, e anche non solo il vino, anche le eccellenze italiane. Pensate che Alibaba ha oltre 400 milioni di consumatori. Quanto riuscirete a recuperare queste posizioni? Quanto state investendo sulla Cina, Rallo? E tanto è stato investito dalle aziende un po' in ordine sparso, quindi con poi purtroppo pochi risultati. L'Italia è partita molto tardi sul mercato cinese, basta pensare che le prime grandi aziende francesi hanno già costruito il business nei primi anni Ottanta, le prime aziende hanno aperto uffici nella Repubblica Popolare già nell'83, nell'84, oggi hanno più di 20 persone sul campo a promuovere le proprie produzioni. L'Italia, come al solito, arriva un po' tardi, e questo gap ci dà appunto soltanto il 10% dell'esportazione della Francia. Cosa stiamo facendo? Beh, sicuramente per la prima volta l'Italia sta facendo un'azione di sistema, quindi grazie al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, si sta facendo un investimento per promuovere il vino italiano presso chi lavora con il vino in Cina. Quindi abbiamo fatto un incoming di cinesi in Italia e poi una formazione anche in Cina per diffondere la cultura del vino italiano. L'Italia è conosciuta dai cinesi per la moda, per la Ferrari, ma il vino italiano è davvero poco conosciuto. Il vino come binomio vino Italia appunto non esiste nella mente del consumatore cinese. Questo è il grande passo che dobbiamo fare, e lo possiamo fare soltanto se le aziende continuano a investire, ma soprattutto se riusciamo a fare un'attività proprio di sistema, cercando di diffondere attraverso appunto questi interventi di promozione la cultura del vino italiano. Sì, avete molto margine, perché le nostre bottiglie lì hanno solo il 5% del mercato contro il 55% dei francesi. E un'ultima domanda, la contraffazione, uno può immaginare che la contraffazione nel vino sia poca cosa, in realtà non è così, perché sulla rete, in internet, circolano kit per il vino fai da te, il vino liofilizzato, false etichette, tra l'altro dei migliori vini italiani. Promettono in pochi giorni di ottenere di produrre col fai da te il Chianti, il Valpolicella, il Frascati, il Primitivo, il Gewurztraminer, il Barolo, il Verdicchio, il Lambrusco o il Montepulciano, e tra l'altro può essere acquistato il vino in polvere anche in alcuni paesi dell'Unione Europea, dalla Gran Bretagna alla Svezia. Allora, fermo restando che chi beve quella roba del genere è un pazzo, è proprio veramente pazzo, ma che cosa fate voi in realtà per contrastare anche quello che è il rischio di contraffazione? Perché se tu mi dici che produci con la polverina il Barolo, il Verdicchio e l'Ambrusco, voglio dire, secondo me di polverina ne hai presa un'altra, ma soprattutto vai sanzionato e attaccato. Beh, è chiaro che abbiamo un sistema di controlli in Italia che è valido soprattutto per le denominazioni d'origine e un po' meno già per le indicazioni geografiche. Nel caso della Cina specifico abbiamo un accordo con Alibaba, quindi un controllo che viene fatto dal Ministero dell'Agricoltura, che sicuramente grazie agli accordi fatti tutela le produzioni italiane. È chiaro che la Cina è grande, non è soltanto Alibaba, ma questo è un grande punto di partenza per prevenire questo fenomeno, che sicuramente in Cina è davvero notevole. Senta, un'ultima domanda, quando è che avrete, diciamo, la conferma definitiva della qualità dell'annata? Perché sappiamo che in Italia fanno la vendemmia prima le regioni del sud, tranne l'Etna, perché ha tutta una sua, e poi ultime arrivano, se non ricordo male, la Valtellina, le regioni montane e l'Etna. Quando è che avrete, diciamo, l'elemento finale sulla qualità di questa annata? Beh, sicuramente dati più precisi possiamo fornire per la metà di ottobre un giudizio, direi, quasi definitivo per i primi di novembre. Allora, grazie intanto a Antonio Rallo, presidente dell'Unione Italiana Vini, in bocca al lupo a tutti i produttori di vino italiani, a cui noi siamo molto vicini, sia come giro d'affari che come prodotto. Grazie Antonio Rallo, noi ci risentiamo domani. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.